Mi chiamo Barbara e sono molteplici cose nella mia vita. Tra queste cose sono una praticante e insegnante di yoga. Insegno Hatha Yoga, inserisco allineamenti e tecniche che vengono dallo stile Iyengar. Il mio progetto qui si chiama Yogurt Acid Body Mind and Soul Care. Per me lo yoga è tante cose diverse, in maniera molto sintetica. È la mia forma di terapia personale, a un livello triadico. Mi aiuta a tenere sul pezzo corpo, mente e anima. Chiaramente molto riduttivo, e questa è assolutamente la mia esperienza. Sto cercando qui di creare degli episodi con materiali di diverso tipo, che magari possano essere utili a voi anime bloccate in quarantena come me. Vorrei parlarvi di respiro, di prana, mindfulness, meditazione, autoconsapevolezza, conoscenza, connessione, paura e resa. Vorrei parlarvi anche di questa magnifica cultura che non mi appartiene, per offrirvi un piccolo contesto storico e filosofico per poter sviluppare un pensiero rispettoso e critico. Non sono una storica della disciplina, ma una devota praticante bianca e occidentale e non pretendo di insegnare niente a nessuno. Vorrei solo condividere qui la mia esperienza, conoscenza, ma soprattutto visione personale. Thank you. ignorance. Then that out of ignorance comes ego, which is the root cause of our forgetfulness of God, our true self, our true self, God, our true self, God, our true self, God, our true self. Forgetfulness of God, our true self, our true self, God, our true self, God, our true self, God, our true self, God, our true self, God. Thank you. Nei due episodi precedenti, il 7 e l'8, ho introdotto i 7 chakras e poi approfondito i primi 3, per cui oggi andiamo ancora avanti su questo filone e parliamo del 4 e del 5 chakra. Solito refresh per memorizzarli un po' meglio, sti chakras, le nostre centraline energetiche che ricevono il prana, energia dell'universo, attraverso le nadi, i canali energetici, e lo trasformano ed inviano agli organi interni e ai tessuti. Partendo dalla base della colonna in un percorso in salita troviamo il Muladhara Chakra, o chakra della terra o della radice, che governa stabilità, sicurezza, fiducia in se stesse. Poi troviamo lo Svadhisthana Chakra, che è il chakra dell'acqua o sacrale, e governa sessualità, emozioni e creatività. Il terzo chakra si chiama Manipura, chakra del fuoco o del plesso solare, e si occupa di espansività, consapevolezza alla vita, azione, volontà e piacere. Poi troviamo l'Anatta Chakra, il chakra del cuore, che si occupa di amore, umiltà, compassione, generosità e apertura al prossimo. Poi troviamo Visuddha, che è il chakra purificatore della gola, che governa comunicazione, apertura al prossimo e ascolto. E gli ultimi due sono l'Ajna Chakra, o il chakra della luce, detto anche il terzo occhio, che si occupa di intuizione, immaginazione e lungimiranza, e l'ultimo il Sahasrara Chakra, o chakra della corona, che si occupa di consapevolezza universale o anche pura. Oggi parliamo di due chakras centrali, sia come posizione che come funzione. Vabbè, in realtà sono tutti centrali, per ragioni espanse diverse. Però oggi siamo proprio all'altezza del petto e del torace. E abbiamo il cuoricino in questa zona, che è l'organo chiave per il corretto funzionamento del nostro corpo intero. Insomma, oggi parliamo dell'Anatta Chakra, il chakra del cuore, e del Visuddha Chakra, detto anche chakra della gola o purificatore. Iniziamo con l'Anatta Chakra, anche conosciuto come chakra del cuore per la posizione, come vi accennavo poco fa. Si trova infatti al centro dello sterno e governa tutti gli organi e gli arti che si trovano in prossimità di questa zona, ovvero il cuoricino, il sistema circolatorio, ma anche polmoni, timo e altri arti superiori. Il suo nome in sanscrito significa non colpito, che letteralmente sta a indicare un suono prodotto da due elementi che non collidono mai tra di loro, e potrebbe riferirsi all'incontro tra il plesso cardiaco e quello polmonare, dove questi due importanti funzioni vitali confluiscono senza mai intralciarsi. Il chakra Anatta è comunque connesso ai nostri sentimenti più puri e disinteressati, come l'altruismo, l'umiltà, la fiducia, la compassione, ma anche il perdono. Per questo la parola chiave associata a questo chakra è io amo. L'elemento che rappresenta questo chakra è l'aria, che unisce il cielo e la terra, e il colore che gli viene associato è il verde, che rappresenta armonia e benessere. Questo chakra è associato alla nostra capacità di sentire l'amore puro e incondizionato, di entrare in sintonia a livello empatico con tutto ciò che esiste nell'universo, e di coglierne la bellezza e la perfezione, ovvero l'abbondanza, nonché di sapersi prendere cura di se stesse e quindi di conseguenza essere in grado di prendersi cura delle altre anime. Anatta ci chiede consapevolezza ed equilibrio, nella percezione delle relazioni e nel rapporto con l'ambiente, l'universo. Scopriamo che alla base dell'amore incondizionato c'è l'accettazione di noi stesse per prima, così come siamo, e quindi degli altri senza volerli necessariamente cambiare. Quando il quarto chakra è aperto ed equilibrato, ne beneficiano la nostra generosità, apertura verso gli altri, l'empatia. Siamo in grado di amare e donare tutte noi stesse senza secondi fini, sentendoci equilibrate in armonia con il resto dell'umanità. Faccio un velocissimo recap della scheda tecnica. La sua posizione dell'Ananta Chakra o il chakra del cuore è al centro del petto. La funzione di cui si occupa è amore, umiltà, compassione, generosità e apertura al prossimo. Il colore associato a questo chakra è il verde, l'elemento è l'aria, il senso e il tatto. Sono associate a questo chakra tutte le pietre verdi, in particolare la tormalina e l'avventurina. Il bija mantra è YAM, YAM, la nota a cui farlo risuonare è il fa. L'animale a cui è associato il chakra è l'antilope. Che succede quando questo chakra è bloccato o comunque non equilibrato? Quando questo chakra è bloccato, la nostra attitudine nei confronti degli altri ne risente in maniera evidente. Diventiamo in qualche modo diffidenti, eccessivamente paranoiche, faticando a fidarci degli altri o a lasciarci andare con gli altri, e alimentando una sorta di crescente indecisione che ci rende dubbiose, abbattute senza motivo, un po' fiacche. Iniziamo a temere ed evitare il più possibile le manifestazioni di affetto, non sentendoci degne di ricevere amore, e siamo anche ansiose nei nostri rapporti sociali. Il primo sintomo di una carenza di anatta è quello di abbattersi senza motivo, il secondo è il rifiuto a farsi toccare, come dicevamo prima, a ricevere manifestazioni d'affetto. Chiuso all'apparenza freddo e indifferente, ma in fondo estremamente vulnerabile, l'individuo in questo caso appare sempre sulla difensiva. Vorrebbe dare amore, ma ha il terrore di essere respinto e quindi si blocca e si sente ancora più inadeguato. In realtà, anche quando il chakra è eccessivamente aperto, si hanno delle conseguenze non proprio piacevoli. Ciò che succede è che cerchiamo di aiutare il prossimo in modo non completamente disinteressato, ma in qualche modo in funzione dei riconoscimenti che ne terremmo e della gratitudine del prossimo. Quindi c'è questo bisogno di dare che è collegato al nostro egoismo, e quindi finiamo poi per incolpare gli altri dei nostri insuccessi e delusioni, perché noi pensiamo di dare ma non riceviamo niente in cambio. Per cui anche questo è uno squilibrio. A un livello fisico, le conseguenze che coinvolgono un blocco in apertura e in chiusura di questo chakra coinvolgono gli organi presieduti dal chakra, ovvero il cuore, i polmoni, causando dei problemi come pressione alta, asma, insonnia, e aumentando il rischio di malattie cardiache e polmonari. Ovviamente si intacca il sistema immunitario. Per lavorare sugli equilibri di questo chakra sono spesso consigliate delle meditazioni con le pietre verdi poggiate sul petto. Si possono anche applicare dei massaggi con delle pressioni circolari, con alcuni oli essenziali. Specialmente consigliato è il legno di rosa, ma ci sono anche una serie di altri oli che potete cercarvi. Si può ripetere come mantra "io amo", ripetere il bija mantra YAM e lavorare su qualche sequenzina di asanas. A brevissimo andremo appunto a vocalizzare YAM, e ricordo di cercare di percepire il riverbero del mantra all'altezza del chakra, ovvero sul cuore. Prima di fare la parte pratica, però, introdurrò e parlerò di Visuddha Chakra, che è il nostro quinto chakra, anche conosciuto come il chakra della gola, perché è situato proprio in questa prossimità. Per l'esattezza sta all'incrocio delle ossa della clavicola con il vertice nella terza vertebra cervicale. Questo chakra governa tutti gli organi che si trovano intorno a questa zona, ovvero la trachea, la gola, le corde vocali, il naso, le orecchie, le ghiandole endocrine della tiroide. Il suo nome in sanscrito significa puro, in virtù del fatto che al suo interno l'energia corporea sgorga dal basso verso l'alto, purificandosi e prendendo forma nelle nostre interazioni più umane e sofisticate, ovvero l'ascolto e la comunicazione. Il chakra Visuddha è infatti connesso alle nostre facoltà espressive, alla sincerità, alla diplomazia e l'espressione creativa in generale. L'elemento che rappresenta questo chakra è l'etere, la celebre quintessenza ipotizzata da Aristotele, e l'energia che lo caratterizza è quella del suono, una forza invisibile ma estremamente potente. Infine, il colore che gli viene associato è l'azzurro, che è da sempre in qualche modo simbolo di purezza e trasparenza. Quando questo chakra è equilibrato, ne beneficiano il nostro lato creativo e le nostre relazioni sociali in primis. Siamo naturalmente portate alla crescita personale, alla comunicazione, alla partecipazione, alla collettività tramite le vibrazioni positive che ci trasmette chi ci sta intorno a noi, l'ambiente. Lo spazio etereo rappresenta in noi l'assenza del giudizio e ci permette di esprimerci in modo cristallino, libere da preconcetti o pregiudizi sugli altri. Un velocissimo recap per questo chakra. La posizione di Visuddha è al livello della gola, all'incrocio delle ossa della clavicola. La funzione è la comunicazione, l'ascolto, quindi relazioni e apertura al prossimo. Colore l'azzurro, l'elemento è l'etere, il senso connesso è l'udito. A livello di cristalli e di pietre troviamo tutte le pietre azzurre, in particolare il calcedonio e la sodalite. Il mantra è Ham, è H-A-M. La nota a cui si vocalizza è Sol e l'animale collegato a questo chakra è l'elefante. Che succede quando questo chakra non è equilibrato? Quando è bloccato a livello fisico possiamo incorrere facilmente in infezioni alle vie respiratorie, ad esempio sinusiti, raffreddori, tracheiti, faringiti, laringiti, ma anche qualche disturbo alla tiroide, non è raro, problemi all'udito e dolore cervicale. Su un piano psicologico ed emotivo ci ritroviamo invece in difficoltà all'ascolto del prossimo e nella comunicazione delle nostre idee. Tendiamo a fuggire dalle interazioni sociali, a chiuderci in noi stesse, lasciarci divorare dalla timidezza, dall'introversione, da un perenne senso di inadeguatezza. Non riusciamo a riporre fiducia in noi stesse, nelle nostre idee, nelle nostre capacità e spesso ci opponiamo al cambiamento che ci sembra altamente traumatico e inaffrontabile. Se invece il quinto chakra funziona in maniera eccessiva, ovvero è troppo aperto, anche qui abbiamo delle conseguenze non troppo positive. Ciò che succede è che adottiamo un atteggiamento completamente opposto, ovvero siamo vittime di irrequietezza, eccessiva autostima. Spesso ci mangiamo le parole, parliamo molto molto molto molto veloce, è in modo impulsivo, troppo impulsivo. Veniamo percorse da rabbia, orgoglio, fanatismo, falso senso di superiorità che ci portano a degradare i nostri rapporti con gli altri. Tra le varie sequenze e modalità per bilanciare questo chakra, troviamo una tecnica pranayama che abbiamo già imparato. E sto parlando di Ujjayi, la respirazione del fuoco, ve la ricordate? È quella respirazione nasale dove chiudendo leggermente la glottide emettevamo il suono Oggi allora inizieremo con un velocissimo rilassamento in Ujjayi. Poi vocalizziamo Yam, il mantra del chakra del cuore, per poi chiudere con Ham, il mantra del chakra della gola. Vi ricordo di visualizzare e ascoltare il riverbero di questi bija mantra a livello dell'organo e del chakra corrispettivo, ovvero pronunciando e vocalizzando Yam, sentirò un riverbero all'altezza del petto e del cuore. Pronunciando e vocalizzando Ham, sentirò il riverbero all'altezza delle clavicole della gola. Ci prepariamo per la fase più pratica. Troviamo una posizione confortevole sdraiata o seduta. A questo punto è meglio se riusciamo a star sedute. Consiglio una posizione a gambe incrociate o in virasana, ovvero con i talloni che sono poggiati sui glutei, o meglio il contrario, i glutei che sono poggiati sui talloni. Oppure ancora si può stare sedute su una sedia se ho problemi alle articolazioni o alle anche, ma cerco di non collassare con la schiena su uno schienale, ma di utilizzare come supporto la mia colonna vertebrale. Chiudiamo gli occhi e portiamo tutta l'attenzione all'interno. Inspiriamo ed espiriamo solo ed esclusivamente con il naso e lasciamo che ad ogni espiro il nostro corpo si rilassi, si arrenda e trovi una pace e una situazione d'agio maggiore dell'inizio. Visualizziamo questo addome che si gonfia e si sgonfia con l'inspiro e l'espiro e manteniamo la nostra attenzione all'altezza dell'addome. Lasciamo andare le tensioni e rilassiamo il corpo. Lasciamo andare i pensieri e lasciamo che la nostra testa segua il ritmo del respiro e si sincronizzi al respiro senza giudizio, senza interazione. Introduciamo la respirazione Ujjayi. Iniziamo con l'espiro in Ujjayi. Introduciamo anche l'inspiro in Ujjayi. Cerchiamo di non forzare il respiro, ma di seguire il suo ritmo naturale. Emettiamo il suono. Lasciamo andare la respirazione Ujjayi adesso e ci prepariamo a vocalizzare il mantra YAM. Ricordo di visualizzare il riverbero, di ascoltare il riverbero di questo mantra all'altezza del cuore, per cui portiamo tutta la nostra attenzione al petto e al cuore. Vocalizziamo YAM assieme la prima volta e poi lascerò proseguire voi in solitudine. Mantengo io un calcolo del tempo e il solito campanellino vi richiamerà e vi dirà di abbandonare il mantra. Inspiriamo assieme. YAM. Ognuno va avanti da solo. Lasciamo andare il mantra Yam e prepariamoci al mantra Ham. Facciamo qualche respiro profondo e lento per calmare il nostro corpo e rilassarlo completamente e prepararlo al prossimo mantra chanting. Vi ricordo che Ham è il bija mantra del Visuddha chakra e siamo all'altezza della gola. Vi ricordo di visualizzare e sentire il riverbero a questa altezza e portare la vostra attenzione tutta attorno alla gola. Il primo lo vocalizziamo assieme e i prossimi li vocalizzate poi da sole. Manterrò come al solito il tempo e il campanellino vi aiuterà a chiudere questo mantra. Inspiriamo assieme. Ognuno prosegua da solo. È il momento di abbandonare il mantra. Facciamo qualche respiro profondo per lasciare andare le tensioni. Rilassiamo completamente il corpo. Ascoltiamo le sensazioni che questi due chants hanno portato all'interno del nostro corpo, ma anche a livello mentale ed energetico. Lentamente usciamo dalla nostra meditazione. La puntata di oggi termina qui. Grazie care amiche, anime in quarantena, in post-quarantena come me, che ancora mi ascoltate e spero stiate apprezzando queste pochissime conoscenze che sto trasmettendo. Questo ciclo di podcast sta per terminare, adesso siamo in qualche modo più libere di uscire all'aria aperta e abbracciare tutta questa abbondanza naturale che ci circonda in maniera reale. Per cui vi consiglio di mantenere un contatto con voi stesse, magari praticare le asanas dello yoga. Se avete interesse da questo punto di vista, non esitate a contattarmi se volete unirvi a un qualche gruppetto piccolino o qualche lezione privata. E la mia mail è barbaralamulas@gmail.com, tutto attaccato. Fresh upon